Roberto Fabbro. Ed eccoci di nuovo insieme, benvenuti e bentornati sulla frequenza di Blu Radio con House Made. In questa serata iniziamo subito con una canzone di Alesso con il featuring di Tolo. Questo è Heroes, il remix di Salvatore Ganacci. Alzate con noi! Sabato 22 novembre qui su Blu Radio. Io vi ricordo di mettere mi piace sempre alla nostra pagina Facebook e di scriverci se vi piace qualche disco per farcelo ascoltare, per proporlo. Fate pure, noi siamo qui a vostra disposizione. Andiamo avanti, prossimo disco è Follow the Sun di Times Square con Xavier Rudd. Questi sono i The Cup Guys Remix. Restate qui con noi, questo programma si chiama House Made. Hello. Follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Breathe in the air, set your intentions. Dream is good. sun, which way the wind blows, when this day is done. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new star. Cup Guys per questo remix intitolato Follow the Sun. Andiamo avanti perché il prossimo disco è veramente molto molto carino, è un rework di Tony Romero. Questo si chiama Music Sounds Better With You. L'originale di Stardust, restate qui con noi, è sempre sulle nostre frequenze, fino a mezzanotte ci siamo noi con House Made. Avete scaricato l'applicazione? Fatelo, fatelo, perché tanto è l'applicazione gratuita e potete trovare tutte le news, il podcast, insomma tutto quello che vi serve. Ah, potete anche contattarci, tramite email, tramite... Quindi non avete scuse, eh. Restate con noi, House Made. canzone, anche questa di Tony Romero, è un rework precisamente. Andiamo avanti, il prossimo è Cedric Gervais con From the Night, Chris Lake Remix. Alziamo il BPM e andiamo sempre più in alto e sempre meglio. Restate con noi in nostra compagnia, Housemaid. You and me alone on the road tonight. Won't pay too much attention to what others may like. Let's lay down in the desert side by side. I wonder what you look like in the morning light. I wonder what you look like in the morning light. Maybe the fire will burn out tonight. I'm not afraid of the dark. I can take you through it. To the meaning of life. Gervais, questo era il remix di Chris Lake intitolato Frog the Night. Andiamo avanti, GTO e Valentine, Lovers the Answer. Questo è il remix di Dean Anthony. Il programma sapete come si chiama? sì. Questo è Housemade. Sarà Dean Anthony con il suo remix di Love's the Answer. Il prossimo è un altro ragazzo che mi piace veramente tanto. Questa è una canzone, diciamo, dallo scorso anno, ma che a me piace veramente tanto. Lui è Vincent One con Hope. Restate qui con noi, nostra compagnia sulle frequenze di Blue Radio. Andiamo avanti ancora per tanto tempo con tante canzoni. Questa è Housemade. Thank you. merita d'applausi anche questa produzione di Vincent One, un ragazzo molto promettente e molto bravo, veramente complimenti. E ora passiamo da un ragazzo promettente a un pioniere. Lui è Deadmau con Sam Chor. Questo è il remix day di Dillon Francis. E questo programma si chiama Housemate. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano da casa. Meno male che ci siete voi, eh. Housemate. Per questa sua produzione, o meglio per questo suo remix, la produzione era di Deadmau. Andiamo avanti e continuiamo sempre con uno stile molto meno di M ma molto ballabile. Loro sono i Far Too Loud con Acid. Questo è il remix di 6-4. Restate qui con noi con Housemate. Andiamo avanti ancora un po'. Io volevo salutare tutti i ragazzi del Mira di Angera che so che ci ascoltano sempre sempre sempre tutti i venerdì e sabati. Quindi un saluto a tutti voi da Alberto Fabris. Alzate il volume a tutti voi che ci ascoltate dallo stereo, dalla macchina o ovunque siate. Questa è Housemate. Bravi, bravi, continuiamo sempre su questa scia. E in arrivo i Firebeats con Sheila. Questo si chiama Switch ed è GPRS Remix. Avete alzato il volume? Mi state ascoltando? Mi date retta? Fatelo perché ne vale la pena. Se poi siete dei discotecari, questo vi farà piacere. Questa va sentita bene, questa musica. Restate con noi e bentornati. Questa è Housemaid. Get them all, get them all. Via e Guipi Res e Firebeats e Sheila. Torniamo in Italia perché ne arrivo due di ragazzi. Quali saluto? Ciao Alessandro e Andrea Vinai. Soundwave Remix. Blu Radio. Come around, make a wall of thunder. Be a spark in the dark, a tidal wave, dancing light. Fill it up now, waiting for the drop in the water. Oh, what a sound raining down. Per questo remix, ormai voi vi siete lanciati nel mondo dei DJ internazionali. Complimenti veramente per tutta la vostra carriera che state facendo e per il vostro percorso. Questo è Housemade. Il prossimo disco che stiamo ascoltando è di Don Diablo, si intitola Back in Time. Questo è Housemade e andiamo in onda il venerdì e il sabato sempre dalle 23 a mezzanotte. Blu Radio. Keep me up all night. Gotta make a move on. Get me up. produzione di Don Diablo, artista internazionale molto forte, a me piace veramente tanto. Torniamo sul filone un po' più pesante, un po' più pestato, perché ne arrivo Timmy Trumpet con Nightmare. Sua canzone è Nightmare. Però torniamo sempre un po' sul filone un po' più commerciale, meno pestato e un po' più melodico. Loro sono gli One Republic con I Lived e questo è Arti Remix. Restate qui con noi, nostra compagnia, sempre con Housemade. Non abbandonate la nostra frequenza, abbiamo ancora musica da farvi ascoltare qui su Blu Radio. Take that jump, you don't fear the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hurt so bad, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. E ora in arrivo un mashup del sottoscritto insieme al mio caro amico Gabri C. Holiday in Boneless. E state qui con noi, questa è House Made. Yeah. molto carino anche questo remix, questo mashup, scusate, mio e di Gabriel C. No dai, chi si loda si imbroda. Questo lo potete trovare in Free Download sul mio canale SoundCloud, quindi non fate problemi, scaricate pure. Andiamo avanti, l'ultima produzione di Hardwell con Chris Jones, questo è Young Again. È l'ultima canzone, godetevela, perché noi torniamo settimana prossima con Housemade. Ricordatevi che noi siamo Blu Radio. When I was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. I wish I could see this world again through those eyes, see the child in me, hear my fantasy, never growing old. Will we ever feel young again? Ringraziare tutti voi che ci ascoltate sempre con tanta passione, con tanto amore, fate sentire il calore mandandoci messaggi su Facebook in privato, quindi veramente grazie. Noi torniamo settimana prossima sempre qui sulle frequenze di Blu Radio con Housemade, con un'altra nuova puntata super. Da Alberto Fabris è tutto, io vi ringrazio veramente tanto, ci sentiamo settimana prossima, ciao.